È il colmo del pessimismo. Però, diciamo, pessimismo non riuscire mai a arrivare davanti a Lorenzo. Poi non dir coach perché sembra un pi per il culo, però lo so che devo abituarmi, ma quando mi chiamano coach i ragazzi non mi giro. Quanto è Ecclestone, bisogna avere rispetto per le persone molto anziane, soprattutto quando per l'età non riescono più a controllare le parole. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Ma che sono? Ma che sono? Io sono. Piano. Io che sono arrivato a velocità, capito? Non so. Però calma. Siediti. Ai. Stanco. No, oggi no. Manco di concentrazione, non ho volontà. Soffro lo stress, io soffro lo stress, sono stanco e fuori forma. Stasera abbiamo fatto una fatica pazzesca e il clima è veramente qualcosa che dobbiamo affrontare perché è veramente difficile. Soffro lo stress, faccio un passo e do il fiatone. Abbiamo pensato di difendere il risultato perché non c'avevamo benzina. Non avevamo benzina, abbiamo recuperato. Quando riuscivamo poi a spingere, abbiamo avuto ancora il coraggio di farlo. Geniale la copertina di Franco Piantanida, perché davvero qualcuno si illudeva che potessimo arrivare in Brasile freschi, riposati, o qualcuno si illude che l'anno prossimo potrà essere diverso. No, non sarà così, anche tra 12 mesi. Saremo cotti a puntino quando torneremo nel caldo asfissiante della foresta per giocarsi non la Confederations Cup ma il Mondiale. E secondo me la lezione di queste settimane non servirà a nulla. Nessuno, ad esempio, metterà mano al calendario della prossima Serie A che chiude il 18 maggio. Pensate, solo un giorno prima rispetto a quest'anno e tutto nell'anno mondiale. Tutti convocati per dire cosa ne pensate. 800 24 0024 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure su Twitter @ tutti convocati. Apro una parentesi sulla Formula 1 perché è appena arrivata da pochi minuti la sentenza attesa del tribunale della FIA a Parigi per la vicenda dei test Mercedes e Pirelli. Ebbene, entrambe sono state semplicemente ammonite. Per la Mercedes è scattata anche l'esclusione dai test per i giovani piloti. Però tutto sommato mi sembra una passeggiata rispetto a quello che si attendeva. Ne parleremo dopo le 14:30. Parleremo ovviamente anche della gara 7 della finale NBA. Però partiamo dalla grande stanchezza della nazionale italiana e lo facciamo con un professionista che con gli azzurri ha lavorato, USA 94. Buon pomeriggio Vincenzo Pincolini. Buon pomeriggio a tutti voi. Sono stanchissimi e abbiamo scoperto tutti che a fine stagione al caldo del Brasile si fa fatica, che scoperta. Sì, però io farei anche alcune altre considerazioni. Cioè, storicamente agosto, giugno per noi è sempre stato, soprattutto negli anni dove c'erano solo amichevoli o tornei, è sempre stato un mese non amico. Sicuramente incide la stanchezza, ma sicuramente incide anche quanto noi cambiamo fra appuntamenti ufficiali, fra, ricordiamo solamente l'anno scorso, i campionati europei in Ucraina e Polonia e, per dire, altre partite. Storicamente a giugno, sia come partite ufficiali per le qualificazioni, sia soprattutto come amichevoli, non ci ricordiamo grandi prestazioni. Mentre per vedere l'Italia vero dobbiamo sentire sempre l'odore delle cose ufficiali, dell'europeo, del mondiale, dove io credo continueremo a essere, con tutti i problemi che abbiamo, ma continueremo a essere fra i protagonisti. Sì, anche se io poi trovo particolare che questa mattina, scoprendo che dovremo fare a meno contro il Brasile di Andrea Pirlo, c'è anche la prospettiva di averlo perso per il resto della Confederation, qualcuno si stupisca. Pirlo, 57 gare a 33 anni compiuti in tutta la stagione. Ho dato un'occhiata ai numeri dei convocati, dei 23 convocati in questa Confederations, soltanto Barzagli ne ha giocate più di lui, tra l'altro anche lui non un ragazzino, insomma, poi dobbiamo mettere in conto che possa accadere anche questo. Sì, io penso anche che questa Confederation Cup può essere molto importante. Perché? Perché in una situazione così di stanchezza e forse anche di un minimo di concentrazione, insomma, diversa dal solito, per dire, si vedono di più i difetti. Quindi ci dà sicuramente la possibilità di guardarci in casa, di capire dove per dire, l'allenatore dovrà cercare di cambiare qualcosa. Io dal punto di vista della stanchezza sicuramente sono meno preoccupato, perché sono numeri anche quelli che hai letto, le 57 gare, che sono numeri che accompagnano un po' tutti i campionati e tutti i grandi campioni. Ecco. Certo, la paura in prospettiva anno prossimo, secondo me, è proprio l'età di Pirlo, l'età di altri giocatori. Se questi giocatori arriveranno a metà maggio, alla fine del campionato, integri dal punto di vista fisico, anche l'anno prossimo avremo una buona nazionale. Queste partite ci lasciano un po' così, un po' l'amaro in bocca, anche se tutto sommato, anche con fortuna, ma quella capacità ancora di fare un contrattacco al 90esimo, tutto sommato rimette al centro quelle che sono un pochino le nostre caratteristiche più importanti. Ecco, se si potesse scrivere la stagione ideale per arrivare a giocarsi un mondiale in condizioni climatiche particolari come saranno quelle brasiliane, cosa dovrebbe scriversi? Noi sappiamo che la Serie A scatterà come di tradizione nell'ultimo weekend di agosto, in questo caso il 25, certo. Chiuderemo a metà maggio, il 18 maggio, quest'anno abbiamo finito il 19, non c'è stata nemmeno l'attenzione, come ogni tanto capitava, per tradizione, di anticiparlo di un paio di settimane. Certo. Potessimo avere davanti un foglio bianco, Vincenzo Pincolini, cosa potremmo scrivere? Io, dopo aver fatto l'esperienza in Russia, in Ucraina, dove c'è una lunghissima pausa invernale, penso proprio che, per dire, creare una, ecco, già quest'anno ad esempio alcune scelte sembra che non ci siano, ma ci sono. Il fatto di giocare ad esempio per le due squadre, Lazio e Juventus, la Supercoppa in Italia, vuol dire una settimana in più di allenamento, 4, 5, 6 giorni in più di allenamento. Cioè, le indicazioni sono queste: cercare gli spazi veri dove si possono trovare e soprattutto riuscire a creare per l'inverno. Pensiamo sempre al periodo di Natale, ecco, quest'anno si cercherà di dar spazio alla Serie B, è una strada giusta, ma la Serie A deve fare uno stop che permetta ai giocatori di ricaricare le pile, perché se, per dire, nel periodo proprio dicembre-gennaio, che ricordiamolo anche, di solito è il periodo dove si parla di campi brutti, di trasferte difficili, di spettatori che non vanno allo stadio, per dire, un break un po' più lungo in quel periodo sicuramente ci darebbe molte più chance di arrivare poi a maggio con ancora un po' di benzina nel serbatoio. Magari da non riempire con tournée in giro per, esatto, il mondo a far, ma soldi. Infatti, però qui c'è la difficoltà poi di conciliare le esigenze legittime dei club, che questi giocatori li pagano, con quelli della nazionale. Io credo che dietro alla scelta della Supercoppa non ci sia solamente un discorso economico, ma ci sia anche un discorso che incominciamo a capire che determinate tournée sono fatica e non sono allenamento. E sono soltanto un modo per fare soldi. Tutti convocati. Stanchi, stressati e anche un po' fuori forma sono i nostri azzurri, che domani sera contro il Brasile si giocano il primato nel girone, che vuol dire evitare la Spagna in semifinale e poi, se ci interessa, vincere la Confederation. In tanti state scrivendo al 349-238-6666 per sottolineare che si tratta più o meno di un amichevole di lusso. Sottoscrivo dalla prima all'ultima parola. Vincenzo Pincolini, per chiudere, mi sembra di poter dire che l'esperienza più vicina dal punto di vista climatico di quello che stiamo trovando e troveremo in Brasile tra un anno possa essere proprio il mondiale negli Stati Uniti del 1994. Allora proviamo a dare tre regolette semplici per capire come si può superare questo grande caldo che stanno trovando gli azzurri e che troveremo ancora fra un anno. Ma io credo che per dire sempre occorra tornare a quelle che sono le ricette più semplici. Ad esempio far ruotare i giocatori, per dire, chiaramente ce ne sono sempre due, tre che è difficile da far ruotare, ma tutti gli altri per arrivare in fondo. Noi arriviamo alla finale con giocatori che non avevano mai giocato, ad esempio, durante il mondiale. Secondo me questo è un errore da cercare di superare. Poi chiaramente fra una partita e l'altra il giocatore che salta la partita deve proprio allenarsi in modo da essere pronto per quella dopo. Secondo me, cioè, avere proprio una rosa di giocatori abbastanza allo stesso livello e cercare di farli ruotare e soprattutto monitorare l'ultima parte di campionato sarà importantissima per far sì di arrivare al momento dell'inizio dei lavori con la nazionale avendo ben chiare la situazione fisica, psicologica e totale in pratica di ogni giocatore. E questi giocatori durante l'anno dovranno veramente già con l'obiettivo, col focus mondiali, fare quello che dal punto di vista individuale è possibile per pensare a una stagione che non finirà il 18 maggio ma che avrà un mese in più in un ambiente sicuramente per le prestazioni fisiche abbastanza ostile. Certamente, grazie Vincenzo Pincolini. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a Vincenzo Pincolini, 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Andrea dalla provincia di Mantova, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Salve, grazie per la convocazione. Intanto volevo fare soltanto due considerazioni. La prima sulla Confederation Cup, che francamente non ne capisco il senso, di dover andare fino in Brasile a fare un amichevole con squadre che poi tutto sommato danno un valore aggiunto minimo. Vedasi il Tahiti ieri sera contro la Spagna che ha perso 10-0. E poi per quanto concerne i giocatori della nazionale, secondo me se vogliamo far sì che arrivino un filo più freschi a queste manifestazioni, è necessario riformare la Serie A. Cosa che sarà impossibile fare certamente quest'anno, ma sarà impossibile farla almeno fino al 2015 perché il format è già stato venduto alle televisioni. Ho l'impressione che anche dopo non si toccherà un granché, perché poi ci sono gli interessi anche legittimi dei presidenti che investono tanti soldi nel campionato, e quindi si andrà avanti probabilmente a 20 squadre, come del resto però fanno anche gli altri campionati, perché non siamo gli unici ad avere questo problema. Andrea, grazie comunque. La domanda però sui calendari l'abbiamo girata anche a Damiano Tommasi, presidente dell'Asso Calciatori, e allora sentite la risposta che ci ha dato. Sfortunatamente o fortunatamente, non so, dipende dal punto di vista, il calendario soprattutto della nostra Serie A non la fa il Club Italia, quindi sta ad una sinergia tra federazione e Lega che probabilmente ad oggi non c'è, nel senso che ovviamente l'occhio di riguardo per le nazionali varia da presidente a presidente, varia da giocatore a giocatore, e credo che l'Italia deve fare con le energie e con i giocatori che ha, e mi auguro insomma che al di là della qualificazione che dobbiamo nel più breve tempo possibile guadagnare, in modo anche da lasciare magari più tempo per recuperare giocatori, visto che non ci saranno partite del dentro fuori, però insomma un'ottica a medio e lungo termine sicuramente potrebbe portare anche a benefici ai singoli club se i giocatori vanno bene in nazionale, però questo sappiamo che non è facile perché sono due organismi diversi che organizzano le competizioni. Sì, c'è un po' di miopia da parte dei presidenti, da parte della Lega? Diciamo che l'obiettivo delle squadre di club è far bene con il proprio club, poi è ovvio che c'è un ritorno anche per loro se il loro giocatore va bene con la nazionale, però di fatto insomma il primo interesse per le quali vengono allestite le squadre, si progetta e si programma una stagione, è sicuramente il risultato di club, insomma. Auspica anche che ci si sieda al tavolo a ottobre, a qualificazione eventualmente raggiunta, per programmare i 10 mesi successivi? Anche in virtù dell'esperienza di quest'anno. La verità è che l'anno prossimo in Brasile arriveremo in queste condizioni, perché difficilmente ci sarà qualcosa di diverso. Ma l'auspicio è di arrivarci quasi peggio, nel senso che l'auspicio è quello che le squadre che lottano per le coppe europee vadano ancora più avanti. Credo che l'auspicio sia quello di dare più turnover ai giocatori che poi sono i pilastri della nostra nazionale e che riescano, come ho detto prima, ad arrivare in condizioni di forma brillante a Brasile 2014. Mi dica la verità, Tomasi, ci crede che sarà possibile questo tipo di discorso, cioè che ai big venga concesso un po' più di turnover? Ma più che altro credo e spero che ci siano dei giovani che riescano a conquistare la convocazione e nei giovani sappiamo, insomma, c'è più energia, c'è più possibilità di mantenere lo stress di una stagione, lo stress fisico di una stagione importante e lunga come sarà e come sono state le ultime. E questo era Damiano Tommasi. Ho l'impressione che non ci creda nemmeno lui all'idea di Pirlo risparmiato ad esempio da Conte, perché poi a giugno c'è il mondiale. Di solito capita esattamente il contrario e io credo che Pirlo, tanti altri, Conte e tanti altri allenatori chiederanno ad esempio a Prandelli magari di far saltare qualche giro, qualche convocazione nell'anno che porta al mondiale. Scrive un amico al 349-238-6666: il caldo di Brasile 2014 si può superare solo con la fortuna che hanno avuto Sacchi e Baggio nel 1994. E poi Luca da Firenze: quante storie, in Inghilterra non si fermano mai, giocano anche a Natale, se non si fermassero mai il 1° maggio il campionato in Italia finirebbe. Però l'Inghilterra poi storicamente in estate non riesce a rendere con la sua nazionale e il problema lo sollevò Fabio Capello nel corso della sua esperienza prima del mondiale sudafricano, non fu ascoltato e per l'Inghilterra finì male. 800 24 00 24, Vito dalla provincia di Bari, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Prego. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Io sarò breve, porrò solo una domanda. Ma questo Diamandi che l'abbiamo portato a fare? In nazionale, dice? Sì. Ma io le rispondo che la sua è una domanda che ha un fondamento e l'allargo non soltanto a Diamanti. Mi viene in mente anche il Sharawi, che domani sera, da quanto si capisce, dalle notizie che arrivano dal Brasile, partirà nuovamente dalla panchina, potrebbe essere impiegato a partita in corso, ma insieme a Balotelli dovrebbe giocare Giovinco. Ed è un timore, mi riallaccio a quello che diceva Pincolini prima, cioè sulla necessità di ruotare nel corso della manifestazione un po' tutti i giocatori a disposizione. È un timore che secondo me noi italiani dobbiamo avere, perché l'esperienza dell'europeo dell'anno scorso ci insegna che sui 23 in tanti, in Polonia e Ucraina, hanno fatto soltanto i turisti. Mi viene in mente Borini, ma non solo, sono tanti giocatori che sono stati assolutamente marginali per la nazionale di Prandelli, salvo poi arrivare alla finale di Kiev assolutamente sulle ginocchia. Avevamo anche 24 ore in meno di riposo rispetto alla Spagna, però ecco, credo che probabilmente anche Prandelli dovrà un po' cambiare le sue abitudini. Pietro da Roma, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. Grazie per la bella trasmissione che ci propinate. Io vorrei sulla nazionale, l'altra sera ho visto una squadra splendida, sorprendente, il Giappone. Ora io mi sento di fare un elogio grandissimo all'allenatore Zaccheroni, che è riuscito a dare un gioco stupendo. Chi se lo sarebbe aspettato? Lei se lo sarebbe immaginato un Giappone così pimpante? Poi una cosa, no Pietro, però non è che nel Giappone giochino dei dilettanti, sicuramente Zaccheroni ha fatto un gran lavoro. Poi abbiamo visto giocatori che comunque giocano nei campionati europei, giocano anche ad altissimo livello, mi viene in mente Kagawa, mi viene in mente Honda, e quindi attenzione sempre a sottovalutare gli avversari, perché magari sono espressione di movimenti che storicamente non sono fortissimi. Grazie Pietro. Tutti convocati. Nel 1982 abbiamo vinto con 15-16 giocatori, scrive un amico al 349-238-6666. Nel 1982, 31 anni fa, era un altro mondo e soprattutto era un altro calcio. E poi Gabriele, io lascerei 20 squadre in Serie A, ma con un tetto massimo di 30 partite giocabili per giocatore, potrebbe essere una proposta, ma ho l'impressione che anche questa in realtà sia irrealizzabile. Raffaele da Torino, buon pomeriggio. Buongiorno a tutti. Prego. Grazie per la convocazione. Dica. Volevo solo fare una piccola considerazione. È vero che il campionato italiano è lungo, ma è lungo come gli altri campionati. E oltretutto le nostre squadre sono piene di stranieri che partecipano ai mondiali con la propria nazione. Secondo me il problema è un problema mentale. Cioè, noi arriviamo a questi appuntamenti, specialmente se sono appuntamenti di secondo piano, scarichi mentalmente. Secondo me quello è il problema. Sì, è sicuramente una parte del problema. È anche vero che ad esempio la Spagna nel recente passato ha pagato la rivalità fortissima e accesa tra Real Madrid e Barcellona, e questo preoccupava anche Del Bosque. Poi però loro sono anche capaci di ricompattarsi nel momento più importante, e soprattutto hanno una qualità tecnica che in questo momento non ha nessun altro e che quindi li mette un gradino sopra. Michelangelo dalla provincia di Foggia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Prego. Senta, volevo dire, no, ricordandomi al collega che prima ha telefonato un minuto fa, volevo dirle, per quanto riguarda il campionato è vero che è lungo, però c'è da dire da prima un'altra cosa rispetto ad altri campionati. Comunque il campionato italiano è sempre quello più difficile, vedi quello tedesco o vedi quello spagnolo, si avvicina più quello inglese, un semplice motivo: quello tedesco, le prime squadre, poi tra la prima e metà classifica c'è un divario, basta vedere con quanti punti ha vinto il Bayern, quindi più o meno le squadre, a differenza di quello italiano, che da quello che si deve salvare a quello che deve vincere si giocano tutto. Uno, due, e costruire un gruppo di giovani anche dalla società di calcio di Serie A, per poi trovare le persone che siano in grado di sostituire. Ad esempio Pirlo, cioè fino ad oggi non è che noi troviamo una persona che possa sostituire Pirlo, vedendo pure la partita fatta col Messico, cioè un giocatore di quell'età ha ancora delle cose da dimostrare. No, in questa nazionale Michelangelo non c'è, nella nazionale che è in Brasile in questo momento, tant'è vero che domani sera contro il Brasile nel ruolo di Pirlo giocherà Montolivo, che semplicemente viene spostato di qualche metro da Prandelli, che domani dovrebbe fare turnover e cambiare almeno mezza squadra. È vero che il vice Pirlo è andato a giocare le finali dell'Europeo con l'Under 21 e si chiama Marco Verratti, tra un anno quasi certamente sarà con la nazionale, però è anche vero che storicamente le società italiane fanno fatica a crescere in casa gli eredi di giocatori importanti come può essere il regista della Juventus. Grazie comunque Michelangelo. Cambiamo argomento, parliamo di Formula 1. È arrivata mezz'ora fa la sentenza attesa del Tribunale della Fiat per la vicenda dei test Mercedes Pirelli. Si aspettava una stangata, una stangatina, chiamatela come volete. Invece saluto Leo Turrini, ciao Leo. Ciao, ciao, ciao. Cos'è arrivata? Una carezza senza pugno, un buffetto? No, come lo chiamiamo? No, una pacca sulla spalla. Una pacca sulla spalla. Io direi alla Mercedes, perché in pratica hanno deciso niente, cioè hanno dato un'ammonizione a Mercedes per questo illecito sportivo. Cosa vuol dire in concreto l'ammonizione, Leo? Niente, assolutamente niente. In pratica gli hanno detto non fatelo più, hai capito? L'unica sanzione, se vogliamo chiamarla così, è che nell'arco della stagione è previsto a luglio un test per tutte le scuderie riservate ai giovani piloti, si chiamano Young Driver, che viene quest'anno svolto a Silverstone, e a quel test la Mercedes non potrà presentarsi. Quindi è una presa in giro colossale. Io guarda, ti dico una cosa, se fossi al posto dell'avvocato Montezemolo, che è giustamente infuriato per questo verdetto, domani mattina stessa a Fiorano o al Mugello manderei in pista Alonso e Massa con la macchina F138, dando loro la possibilità di sviluppare la vettura facendo come Mercedes 1000 km di collaudo, perché evidentemente si può ignorare il regolamento ricevendo in cambio quasi complimenti, perché dico, è stato fatto un processo alla fine del quale gli hanno detto va bene, non fatelo più. No, è una cosa scandalosa che dimostra una volta di più l'assoluta assenza di credibilità nella Formula 1 per quanto riguarda la materia delle norme, i regolamenti. Sì, ricordiamo Leo che si partiva dalla contestazione degli articoli 22 e 151, qualcuno ha scritto oggi, cioè per intenderci la stessa contestazione che aveva portato alla condanna della McLaren per la Spy Story. Stavamo parlando di una cosa certamente più grave di questa, però no, per intenderci la montagna che ha partorito un topolino, ma anche bravo, meno. Bravo, ma neanche il topolino, io direi che qui è stato partorito un moscerino. Mi spiego, la contestazione, io non a caso prima ho usato il termine illecito sportivo, no? parlava esplicitamente di una frode atta ad alterare i risultati, le prestazioni, il rendimento della macchina, perché c'è una legge della Formula 1, intendo, che vieta assolutamente qualunque test con l'auto della stagione in corso nell'arco del campionato. Non si può fare. Tutti possono sviluppare la loro vettura soltanto al computer o al simulatore. Ora, questi furboni di Stoccarda, che evidentemente chiamandosi Mercedes hanno la possibilità di reinterpretare le norme a loro piacimento, tra Gran Premio di Spagna e Gran Premio di Monte Carlo si sono inventati che invece loro potevano fare 1000 chilometri con Hamilton e Rosberg. Tra l'altro ti dico una cosa che ci sarebbe voluto Nick Carter, l'eroe dei fumetti di Bowie, di Guido De Maria, perché sono andati a Barcellona di nascosto, Hamilton e Rosberg li hanno fatti girare con delle tute anonime e dei caschi neri. Insomma, una roba che uno, se ci pensa, dice proprio c'era l'intento truffaldino. Questione di privacy, hanno detto. Sì, questione di privacy, ma guarda, addirittura Ross Brown, che intendiamoci, quando era in Ferrari ha fatto vincere tutto la Ferrari, quindi massimo rispetto, ma è sempre stato il re dei furbetti nel quartierino in Formula 1, cioè uno che di fronte a una regola trovava la maniera di piegarla, insomma, diciamo così, di trovare un pertugio nel codice per fare in modo di fottere il prossimo. Ecco, questo Ross Brown è riuscito a dichiarare che non si trattava di un test segreto ma privato, confondendo, credo, i codici dello sport con le riunioni degli scambisti di coppia la notte, hai capito? A Milano piuttosto che a Stoccarda. Insomma, una cosa incredibile. E alla fine, di fatto, la Federazione Internazionale gli ha dato ragione. D'altronde, tu mi insegni chi è il presidente della Federazione Internazionale? Dillo tu. Chi è? No, non te lo dico. Io però ti faccio un'altra domanda. Perché... è Jean Todt. No, te lo dico io. È stato per anni il capo di Ross Brown alla Ferrari. E quindi certamente non poteva scaricarlo. Secondo te, questi qui sono culo e camicia. Quindi, voglio dire, era immaginabile alla fine che Ross Brown venisse mandato a fondo dal suo sodale negli anni dei trionfi Ferrari? No, era impossibile. Io però mi domando, adesso l'appassionato comune, di fronte a queste situazioni e di fronte a questa sentenza, che cosa posso pensare? Ripeto, io sono Montezemolo, domattina faccio aprire il circuito di Fiorano e dico adesso Alonso e Massa, in vista dell'imminente campionato di Inghilterra, fanno 1000 chilometri di test. Tanto la sanzione quale sarebbe o quale sarà? Una ammonizione, e poi non possiamo mandare un ragazzino a fare i test riservati ai giovani piloti a metà luglio. No, devo dire, è una barzelletta assoluta, una cosa. Io sì, purtroppo Leo, è semplicemente l'ultima di una serie, perché negli ultimi anni ci siamo trovati molto spesso a parlare e a leggere di Formula 1 parlando di tribunali, di scandali. È un grandissimo problema, sai, per la credibilità dell'automobilismo internazionale. Bisogna avere anche il coraggio di dire la verità fino in fondo. Cioè, in Formula 1 ormai sono 40 anni che comandano sempre quelli. Ogni tanto si cambiano il cappello, la giacchetta, fanno come il gioco delle figurine, hai capito? Todd era il capo della Ferrari, adesso è il presidente della Federazione Internazionale, Eccleston, che è immortale, c'è sempre, decide tutto lui. In questa vicenda c'erano uomini di Eccleston ovunque, perché tipo questo Charlie Whiting, che è il direttore tecnico della Federazione Internazionale, responsabile del rispetto delle regole, era stato lui con una misteriosa email a giustificare in qualche maniera la Mercedes. Sì, c'era anche un po' di imbarazzo della FIA, sì, per questo coinvolgimento di Whiting. C'erano dentro fino al collo. Cioè, voglio dire, il problema è che qui bisognerebbe spalancare le finestre, far entrare aria pulita, soprattutto garantire un ricambio. Invece questi non se ne vogliono andare e rimarranno lì. Tra l'altro, poi io sono contento per loro, godono tutti di ottima salute, quindi non fatevi nessuna illusione, perché per i prossimi 20 anni le cose continueranno ad andare in questo modo. Ti dico un'altra roba, dimmi se adesso la Mercedes si mettesse a vincere ripetutamente i Gran Premi. Ah, io credo che succederebbe quello che è successo dopo Monte Carlo, dove ha vinto, indovina chi ha vinto? Ha vinto la Mercedes con Rosberg.